Io invece ne approfitto per darvi il benvenuto, ringraziarvi di essere qui presenti alla nostra consueta iniziativa del lunedì. Abbiamo con noi un ospite speciale che è Lorenzo Baldo, giornalista, autore di moltissimi reportage e soprattutto responsabile di una rivista che si dedica appunto all'antimafia. Come entreremo poi nel vivo della discussione, ma intanto vi segnalo che c'è il libro in vendita qui alla mia destra, di là c'è una vetrina tematica che abbiamo allestito, e con noi, con Lorenzo Baldo, che ringrazio di essere venuto fino qui a Bolzano, c'è anche Massimiliano Boschi, che è un giornalista del Corriere della Sera, della sezione Alto Adige. Ora, la biblioteca ci tiene tantissimo a organizzare continuamente, quasi quotidianamente, delle iniziative per promuovere non solo il materiale che abbiamo, che custodiamo, continuiamo a integrare, ma anche per dare dei servizi e incontrare gli utenti in quello che noi riteniamo necessario, progresso necessario per mantenersi liberi. E in questo senso, ecco, ogni tanto ne approfitto di queste occasioni preziose per raccontare quello che facciamo. In particolare, domani pomeriggio riparte un ciclo dedicato al BiblioWeb, ovvero come accedere alla piattaforma e leggere i giornali online in tutte le lingue. Ne abbiamo tantissimi, è un servizio gratuito ed è anche gratuito il corso che viene tenuto da Fabio, che è qui con me questa sera e che ritrova, raduna le persone interessate alle 15:30 al piano terra della biblioteca. Inoltre abbiamo dato vita, da quando siamo in questa sede, anche a degli incontri di lettura di pomeriggio dalle 17 alle 18. La giornata del 17 aprile sarà dedicata a Fenoglio, Beppe Fenoglio, un autore che ha scritto tantissimo anche in merito alla storia della Resistenza, ma in chiave narrativa. È interessantissimo, e una professoressa del liceo classico condurrà questo incontro, che è appunto Giovanna Negata. Siete invitati, e si tratta della giornata del 17 aprile presso la biblioteca a piano terra. Altri due appuntamenti che voglio ricordarvi è quello del 12 aprile, che è proprio qui vicino. Giovedì abbiamo un incontro con un gruppo che si occupa di pedagogia di Arno Stern e così vuole far conoscere quello che il loro gruppo, la loro associazione, promuove per i bambini ma anche per gli adulti, in ambito anche di così coltivazione e scoperta della propria creatività. L'incontro è giovedì ore 17 al piano terra. E poi altre due cartoline. Abbiamo un appuntamento giovedì 19 aprile, sempre in questa sala, con Eleonora Goio, il suo ultimo romanzo Che Cuba. E poi invece lunedì 16 aprile, sempre in questa sala, Un cognome di troppo, con l'autrice Floriana De Leo. Sono tanti appuntamenti. L'invito che facciamo sempre è quello di iscriversi alla biblioteca per avere costantemente delle informazioni, così arrivano le mail oppure potete passare qui da noi e ricevere le informazioni su quello che facciamo quotidianamente. Non mi dilungo altro, lascio adesso la parola ai nostri ospiti con una riflessione piccola, brevissima, che ho condiviso prima con Lorenzo Baldo. Ammetto che uno dei pochi programmi televisivi che guardo è uno su una rete nazionale che da quasi 30 anni si occupa di scomparse, ma soprattutto negli ultimi anni ha preso una piega molto di indagine, portando in auge degli episodi che venivano bollati semplicemente come semplici scomparse e in realtà dietro si celavano degli intrighi e soprattutto dei delitti ben più efferati e dei risvolti anche sociali e politici molto più complicati. Il merito di questa trasmissione forse lo conoscete anche tutti, loro è di dominio pubblico, ma uno dei casi era proprio quello di Attilio Magro, no? Era una quindicina di anni fa, un po' meno, era emerso questo delitto, anzi questo suicidio, e che poi invece si è rivelato tutt'altro. Però poi mi fermo qui, ringrazio Lorenzo per l'impegno che porta avanti e, come ho detto prima, la biblioteca come compito quello di far conoscere le varie verità e soprattutto di rendere liberi attraverso la conoscenza e la lettura tutti i cittadini. Grazie. Benissimo. Allora, intanto io sono qui per presentare questo libro che è Suicidate Artigio Marca, che è scritto da Lorenzo Baldo. Credevo di dover fare gli onori di casa, ma poi ho scoperto che il bonzalino dei due è lui e quindi magari ti faccio fare a lui gli onori di casa. E mi limito a una introduzione molto breve, perché il libro parla da solo e poi lo lascerò presentare all'autore, perché nessuno meglio dell'autore può sintetizzarlo e raccontarne le parti più importanti. Quello che trovo molto interessante nel libro riguarda intanto un argomento che sembra scomparso dalle cronache dei giornali. La mafia siciliana, cosa nostra, sembra scomparsa da quello che ha a fare. Non ci sono più fatti eclatanti e bisognerebbe quindi comprendere che cosa sia successo dopo la stagione delle stragi. E questo credo che sarà un argomento che tratteremo nella parte finale, magari, della presentazione. L'altra riguarda più specificatamente il libro, in quanto io ho trovato il libro molto interessante anche perché l'autore si è chiaramente immerso nella vicenda. Si cerca sempre di trovare un punto di vista oggettivo o di tenere le distanze dal caso che si studia. In questo caso non credo sia stato fatto questo, ma rende tutto, secondo me, più sincero. Cioè, si ha un punto di vista chiaro, poi lo andremo per pezzi a raccontare, ma prima di iniziare facendolo presentare all'autore il libro, volevo tendenzialmente tenere, se possibile, distinte due cose. Una, la parte che riguarda il suicidio di Attilio Manca, cioè di un urologo giovane che, almeno a sentire le testimonianze di chi lo conosceva, mai si sarebbe suicidato, soprattutto in quel modo, cioè con delle iniezioni di eroina. E la parte invece in cui, mancando dei pezzi fondamentali per comprendere cosa è successo realmente quel giorno, si è costretti a ipotizzare qualcosa, perché la ricerca vera da parte dell'inchiesta iniziale non c'è stata. Quindi l'unica premessa è questa: cercheremo di tenere distinti due aspetti, perché uno si basa su fatti, credo, molto più precisi e importanti, e l'altra costringe ad alcune congetture. E quindi, come prima cosa, chiedo a Lorenzo di presentare brevemente il libro e poi passerei ai punti specifici. Sì. Allora, sì, intanto ringrazio tantissimo la biblioteca per aver accettato questa presentazione, ringrazio Fabio Ferrarese che ha fatto da tramite, la direttrice della Trevisan. È una grande emozione essere qua, perché, come diceva prima lui, in piccola parte diceva anche un po' Bolzanino, perché mio padre è bolzanino, io ho vissuto da 0 a 4 anni qui, quindi ho un legame con questa città. E quindi è una grande emozione vedere anche amici, anche parenti qui, e iniziamo a raccontare la storia di Attilio Manca, questo urologo brillante e siciliano, di origine siciliana, però trapiantato a Viterbo, che era un luminare nel suo campo, perché pensate che nel 2001 era il primo chirurgo in Italia che aveva operato a Roma il cancro alla prostata per via laparoscopica, una tecnica innovativa nel 2001. Bene, c'è un'agenzia ANSA che dice proprio questo: la prima operazione avvenuta in Italia per curare il cancro alla prostata per via laparoscopica è stata eseguita dal professor Rizzotto, appunto Gemelli, insieme ad Attilio Manca. Quindi un numero uno nella sua professione. E soprattutto un ragazzo innamorato della vita, un ragazzo che a 34 anni suonava, cantava, innamorato dell'arte, tutte le equipe mediche se lo contendevano perché era veramente una persona straordinaria, cioè preparatissima, e tutto il contrario di quello che potrebbe essere una persona che ha istinti suicidi. Perché dico questo? Perché la morte di Attilio Manca, che avviene il 12 febbraio del 2004, è causata da due dosi di eroina, quindi lui muore per un overdose. il classico caso di un tossico che d'improvviso si fa due dosi e muore di overdose. Ma perché è strano? Primo perché attira anche al mancino puro, quindi tutto con qualsiasi operazione, qualsiasi atto lo compiva con la mano sinistra. Ebbene, quel giorno viene trovato con due punture, di appunto due segni di iniezione nel braccio sinistro. E già la prima cosa che non torna una persona che non era un tossicodipendente, perché tutti i suoi amici, colleghi, lui faceva turni massacranti all'ospedale 12-14 ore, una cosa incredibile, ed era sempre lucidissimo. Era una persona che proprio molto ferma, non aveva mai dato segni di cedimento, di crisi, tutti i colleghi lo ricordano così. Ecco, quel giorno lui appunto viene trovato con queste due dosi di eroina nel braccio sinistro e sulle siringhe che vengono trovate in casa non ci sono impronte. Quindi cominciamo a mettere insieme i misteri di questa stranissima morte. Quindi, diciamo così, la polizia entra la mattina del 12 febbraio 2004 intorno a mezzogiorno praticamente, perché tutto il giorno dell'11, il giorno prima, Attilio Manca sparisce dalla scena. Nel senso che fino al 10 febbraio Attilio c'è, e va a pranzo con la sua amica carissima, e quando è a pranzo comincia a cambiare di umore. Riceve una telefonata da questo amico siciliano che gli dice di andare a Roma, e lui d'improvviso decide di partire. L'amica si preoccupa, dice: Attilio, che c'è, perché sei nervoso? E dice: no, devo andare a Roma, prendo una videocassetta, ci siamo a Viterbo, quanti minuti che vuoi, perché devi andare a Roma? Lui si innervosisce, prende la macchina e parte. Quindi già il primo mistero è perché lui il 10 febbraio deve partire e andare a Roma. Mentre è in viaggio, lui che aveva vissuto 10 anni a Roma, inspiegabilmente chiama alcuni suoi colleghi e chiede indicazioni per andare in determinati posti di Roma. Tanto che i colleghi dicono: Attilio, ma tu c'hai vissuto a Roma, noi sappiamo che ci si arriva a Piazza del Popolo, poi indirizzi famosi, diciamo. E sembra quasi che lui voglia dare delle tracce, come per dire: sto andando in quel posto. I colleghi non capiscono, però cioè, lo spiegano. Quindi lui arriva a Roma, si incontra con una donna, che verrà poi ovviamente rintracciata dalla polizia, che è l'ultima che lo vede in vita, ed è sì una donna che ha fatto uso di stupefacenti, ma è un legame strano, perché viene tramite dei siciliani, che presentano questa donna ad Attilio, come se fosse un gancio utile per farlo diventare un tossico d'improvviso. Quindi Attilio torna da Roma al 10 la sera, chiude i contatti con tutti, solo sms fino alle 10:30 di sera, e da quel momento tutta la giornata dell'11 non sparisce. Lui aveva appuntamenti a Roma, doveva andare a fare delle operazioni in altre cliniche, per lui lavorava sia a Viterbo ma anche in cliniche private a Roma. Non disdice gli appuntamenti, manca questi appuntamenti, quindi ci sono degli interventi che saltano perché lui non va tutta la giornata dell'11, salta una cena importantissima la sera dell'11, quindi è una giornata strana. L'unica cosa, qui comincia un altro mistero, che la madre di Attilio Manca si ricorda benissimo, è che il giorno 11, la mattina, quando Attilio di fatto già non c'è ufficialmente per nessuno, i colleghi lo chiamano e non risponde, intorno alle 10 la madre riceve una telefonata di Attilio che gli dice: mamma, vedi di preparare la mia motocicletta che è a Tonnarella, una località balneare vicino a Barcellona, Pozzo di Gotto, che è la città natale di Attilio Marca in provincia di Messina. E Attilio dice: mamma, vedi che la moto sia pronta per quest'estate. E allora dice: Attilio, ma siamo febbraio, cos'è questa fretta fino ad agosto? E lui si nervosisce. E la madre chiude la conversazione e dice: padre, ma cosa c'è oggi, Attilio? Quindi le rimane impressa questa telefonata. E una cosa stranissima è che nei tabulati telefonici, quando la polizia e i magistrati andranno a cercare questa telefonata, non risulta. Quindi un altro mistero, una telefonata che sparisce, non è l'unica. Cominciamo a collezionare tutti questi misteri. Poco prima, ad ottobre del 2003, Attilio è in Francia. E dice: mamma, sono nel sud, chiama i genitori, ci sono nel sud della Francia ad assistere a un intervento. Ottobre 2003, ricordiamoci questo periodo, è il periodo in cui Bernardo Provenzano va a farsi operare alla prostata in Francia. Ovviamente sotto falso nome, in una clinica privata, però ci sono delle coincidenze. E la questione mafia entra piano piano in questa storia. Perché? Perché una settimana dopo la morte di Attilio Manca, il padre del miglior amico di Attilio si avvicina alla madre al cimitero e dice: signora, ma anche suo figlio è stato ucciso perché ha arrestato un latitante? E la madre al cimitero, ancora stravolta dal dolore, che ancora non sa perché il figlio è morto, tutto così, questa frase le rimane in testa, ma non capisce perché. Lui riferisce al marito la sera quando torna a casa e dice: perché gli ha chiesto se il nostro figlio è stato un latitante, ucciso? E la cosa, diciamo, viene messa così in stand-by. e siamo nel 2004. Nel 2005, un anno dopo, viene fatta una grande operazione antimafia, viene smantellata la rete di fiancheggiatori di Provenzano e viene arrestato Ciccio Pastoia, uno dei fedelissimi di Provenzano, che viene intercettato in carcere mentre parla con il suo sodale e dice e parla di un urologo che avrebbe visitato Provenzano. Questa cosa esce sui giornali. La madre del figlio si ricorda di quella frase di un anno prima, chiama l'avvocato e dice: avvocato, allora nostro figlio è stato ucciso perché ha visitato Provenzano, perché mette insieme la frase di del padre del miglior amico. Ovviamente questa intercettazione che uscirà sui giornali, e l'avvocato comincia da quel momento a battersi contro l'archiviazione del caso, che a Viterbo arriva come un caso di droga, un suicidio a base di droga, una cosa semplicissima. E invece cominciano le battaglie giudiziali per dire: no, vediamo insieme perché ci può essere la presenza della mafia, perché c'è questa presenza strana in Cosa Nostra, perché il capo dei capi avrebbe chiesto a uno dei migliori urologi che erano in quel momento in Italia di essere visitato prima o dopo l'operazione della pancia. Perché diciamo che la tesi della procura di Viterbo è: Attilio Manca non può essere stato un uomo, un chirurgo che ha operato Provenzano, perché noi abbiamo chiesto alla procura di Palermo, che ha fatto le indagini sulla cattura di Provenzano, hanno consultato la clinica, hanno interrogato tutti i medici e non risulta la presenza di Attilio Manca. Perfetto. Ma chi lo dice che non lo ha potuto visitare prima di un'operazione così delicata e dopo? E soprattutto cominciamo a mettere insieme i tasselli della mafia. Allora, abbiamo visto che era il padre del mio amico, da questo primo input, una cosa molto importante. Anni dopo verranno fuori delle intercettazioni molto importanti, perché la sorella di un mafioso, Vincenza Di Sognano, è in macchina con degli amici e parla. A un certo punto la conversazione va a toccare Attilio Manca. Pensate, non parlano come un suicidio, parlano come un omicidio. Siamo nel 2007, più o meno, 3 anni dopo la morte di Attilio. A un certo punto uno degli occupanti della macchina dice: ma perché lo avrebbero dovuto ammazzare? E parlano di ammazzare. Dice: perché lo aveva riconosciuto, e parla di Provenzano. E un terzo interviene per dire: che significa? Tutti sapevano che lui si nascondeva attorno a Reba. Capisci? Tornano insieme dei pezzi. Attilio che dice al telefono: prepara la mia moto che è a Tonnarella. Questa cosa stranissima a febbraio per agosto. Questi che vengono intercettati. E devono ancora venire fuori altri pentiti. Nell'arco degli anni ne vengono fuori 4 collaboratori di giustizia importantissimi. Prima Stefano Loverso, uno dei fedelissimi anche lui di Provenzano, che dice: Provenzano torna dalla Francia, portò una statuina della Madonna. E io posso raccontare agli investigatori tante cose utili per le investigazioni su Attilio Manca, perché c'è chi dice che si è suicidato e c'è chi dice che è stato ammazzato. E questa è rimasta una testimonianza che è rimasta lì. Poi, ancora prima del clan dei Casalesi, Giuseppe Setola, lui stesso dice: a me in carcere mi hanno detto che Attilio Manca è stato ucciso dalla mafia perché ha visitato Provenzano. Poi però che succede? Giuseppe Setola fa queste dichiarazioni ai magistrati di Palermo che indagano sulla trattativa Stato-mafia, e capiremo perché Attilio Manca può entrare in questo grandissimo mare magno di trattativa Stato-mafia. Ebbene, Stefano Loverso parla con questi magistrati, però inspiegabilmente le sue dichiarazioni arrivano come uno scoop sulle agenzie, l'ANSA, l'Enecronos, prima ancora che vengano, diciamo, segretate. Il pentito ha paura e quindi fa un passo indietro e decide di non collaborare più. Ed è importante, perché si capisce che l'argomento è molto pericoloso, perché si comincia a alzare il livello. Non è più solo la mafia che uccide un testimone scomodo, è qualcosa di più. Ci sono gli apparati, c'è cioè la massoneria, i servizi segreti deviati, come vengono normalmente definiti. E cerchiamo di capire perché un terzo pentito, Carmelo D'Amico, alza proprio il livello. Lui dice: io ho avuto dei racconti in carcere da un sodale che detto che Attilio Manca è stato ucciso molto semplicemente perché ha visitato Provenzano, ma anche riconosciuto chi stava attorno, i famosi apparati extra istituzionali. E racconta che addirittura un generale dei carabinieri avrebbe chiesto a un boss, un pregiudicato, un ex avvocato, che comunque è un uomo d'onore, tra virgolette, chiamato proprio l'avvocaticchio, Rosario Pio Cattafi, che entra e esce nei ministeri d'Italia incredibilmente legato alla versione nera, ai servizi mediati. Ebbene, questo è un gancio, un anello di congiunzione, perché guarda caso conosce molto bene il cugino di Attilio Manca, e sarebbe, diciamo, colui che avrà messo in contatto Attilio Manca con questo pregiudicato, che avrebbe convinto a curare o visitare una persona. Quindi questo mafioso cosa ci dice? Che un generale dei carabinieri, pensate, piduista, legato a Piduti Viciogelli, chiede a un pregiudicato di Barcellona che si è rivolto Rosario Procattati di entrare in contatto con Attilio Manca perché ha bisogno di curare un latitante. C'è un racconto quasi fantascientifico. Però perché questo pentito se lo sarebbe dovuto inventare, dando dei riscontri così oggettivi, nomi, cognomi, circostanze? E tutte queste cose sono state cristallizzate in un verbale che è rimasto lì, non è servito alla procura dell'interno per dire fermi tutti, non è un suicidio di droga, perché stanno arrivando troppe testimonianze che ci dicono che c'è la mafia di mezzo, e non solo la mafia, ci sono questi apparati, queste entità esterne. L'ultimo pentito, diciamo in via cronologica, Giuseppe Campo, addirittura alza il livello e coinvolge il cugino, questo famoso cugino di cui parlavamo prima, Ugo Manca, che è un personaggio particolare, che è stato condannato per droga in primo grado, poi assolto in appello in via definitiva, però i rapporti di polizia lo indicano vicino ad ambienti di mafia, e non solo di mafia, anche di massoneria. Quindi il ruolo del cugino è molto importante. Ebbene, quest'ultimo pentito cosa fa? Dice che di aver saputo di essere stato lui stesso incaricato di uccidere Attilio Manca, però in modo molto semplice, avrebbe dovuto sparare, doveva passare la motocicletta, sparargli, un suo complice l'avrebbe portato via, e la cosa sarebbe finita lì. Giuseppe Campo non era un killer, diciamo così, professionista come era Carmelo Davigo, che è considerato quasi un Giovanni Brusca versione messinese. Giuseppe Campo era a un livello più basso, diciamo un killer, ma non aveva tutta questa esperienza, però sapeva che se avesse rifiutato avrebbero ammazzato. Quindi lui accetta di uccidere Attilio Manca, e viene predisposto tutto, appunto, l'organizzazione della motocicletta, il socio l'avrebbe preso. Poi a un certo punto passano dei giorni, non si sa più niente, e a fine febbraio 2004 gli dicono: stai tranquillo, abbiamo già risolto, lo abbiamo ammazzato al Viterbo, e fra i killer c'è il cugino Ugo Manca. Quindi questa figura entra un'altra volta in questa storia. Ma perché entra, e non solo, diciamo, con una testimonianza, diciamo, di un pentito, anche oggettivamente, perché l'impronta di Ugo Manca è l'unica impronta che resiste nel bagno dell'appartamento di Attilio Manca, nonostante le pulizie del Natale, perché pensate che al Natale del 2003 la famiglia Manca va a trovare il figlio a Viterbo, quindi la madre si occupa, come tutte le madri, di pulire la casa, preparare pranzi, cioè, perché è felice di farlo, perché va a trovare il figlio, pulisce approfonditamente la casa prima di Natale e dopo Natale. Ebbene, il cugino ha il coraggio di dire che lui è andato a trovare, appunto, al figlio a metà dicembre, quindi prima del Natale, per un banalissimo intervento urologico che poteva fare tranquillamente in Sicilia, però chissà perché decide di andare in terra. E attenzione, qui apro una parentesi importante: Ugo Manca è un grandissimo accusatore di Attilio, è uno di quelli che dirà: mio cugino era un tossico anomalo che si drogava, poi stava tranquillamente senza drogarsi un mese, poi continuava a drogarsi. Quindi uno dei grandissimi accusatori, tanto che una nostra collega di servizio pubblico di Santoro, che riesce a intervistarlo, gli dice: scusi, lei ha accusato suo cugino di essere un tossico, e lei si sarebbe andato a far operare da suo cugino un tossico, con il rischio che durante l'operazione, se quello era di una strana, rischiava la vita anche lei, e lui la caccia fuori di casa, chiusa parentesi. Ecco, quest'uomo è riuscito a dire agli investigatori che la sua impronta nel bagno è stata ritrovata a marzo 2004, quindi pochi mesi più era stato, nonostante le pulizie di casa, tutto, lui se l'era fatta perché era uscito dalla doccia a metà dicembre e aveva appoggiato la mano sulla parete e la sua mano era rimasta. I periti dell'avvocato di famiglia hanno detto che era impossibile, perché nel luogo più umido di tutta la casa un'impronta che poteva resistere da dicembre fino a marzo, con tanto di pulizia nel frattempo compiuta dalla madre, era veramente impossibile. Questo per dirvi il quadro così strano, che è il quadro misterioso, perché non può essere etichettato come suicidio quando ci sono tanti e tanti elementi che dimostrano che c'è un mistero, che è un mistero tipicamente italiano. Qui vado a concludere questo primo troncone. perché Attilio sarebbe stato un testimone scomodo da uccidere, non solo per la mafia ma per lo Stato. Perché, come dicevamo prima, se lui ha, e qui entriamo nel campo delle ipotesi ovviamente, perché non abbiamo riscontri oggettivi, abbiamo testimonianze dei pentiti, però purtroppo ci mancano i pentiti di Stato, uomini di Stato che potrebbero dire sì, è vero quello che dice il mafioso, l'ho vissuto io all'interno dello Stato ed è vero. Se Attilio ha riconosciuto Provenzano, che non era quel vecchietto che girava con la carta d'identità di Gaspare Tonia, ma era Provenzano il capo di Cosa Nostra, e se è riconosciuto la rete di protezione istituzionale che ha protetto quest'uomo per 40 anni, perché Bologna è un paese folle dove ci sono mafiosi che resistono come Totorina, Provenzano 30-40 anni, adesso abbiamo Matteo Messina Denaro che è l'ultimo dei corleonesi, condannato anche per le stragi del continente Roma, Firenze, Milano nel 93, che inspiegabilmente continua a essere latitante più di 20 anni, 25 anni. Ecco, non può essere, non può esistere una latitanza così lunga come quella di Provenzano, 40 anni, se oltre ad avere i tuoi appoggi mafiosi non hai anche appoggi istituzionali. Chiamiamo lo Stato deviato, sono d'accordo, per carità, ma comunque una parte di Stato. Perciò se Attilio Manca ha riconosciuto questi pezzi deviati dello Stato, per forza deve essere ammazzato. E quindi è questo che ci fa capire che questo mistero tipicamente italiano non può essere relegato a un suicidio a base di droga, prima per le cose oggettive che abbiamo visto, non era un drogato, era un mancino e si è drogato stranamente nel braccio sinistro, non sono rimaste le sue impronte su due siringhe, cioè come se gli investigatori non hanno trovato un attrezzo per la preparazione dell'eroina in quella casa, cioè è come se le siringhe fossero arrivate pronte per l'uso, lui se l'è, appunto, si è iniettato questa droga e poi basta, non ha lasciato l'acciaio statico, non ha lasciato il chiavino dove ha riscaldato l'eroina, la casa era in perfetto ordine, non era chiusa la serratura dall'interno, quindi tante tante anomalie, compresa poi la stessa autopsia, perché non so se qualcuno di voi ha visto il servizio su Italia 1 delle Iene, è stato un servizio ben fatto perché hanno messo in evidenza le incongruenze di un'autopsia fatta male, tanto che la procura di Viterbo ha dovuto chiedere due volte al perito, la dottoressa Lalletta, di fare delle integrazioni che non si fa quasi mai, e quando un'autopsia è fatta decentemente che si dice l'ora della morte, la causa e tutto quello che concerne, invece è stata fatta proprio male, cioè la dottoressa Lalletta non riusciva dal primo al secondo referto a definire l'ora. Prima il medico del 118 disse è morto 12 ore prima, quindi lo trovo il 12 febbraio, intorno a mezzogiorno, e dicono è morto a cavallo della mezzanotte di 11. E per loro il 2018 è chiarissimo, è questa la causa. Eroina 12 ore prima del ritrovamento. La dottoressa Lalletta no, per lei è morto lo stesso giorno in cui è stato trovato, quindi non si sa quando. Ovviamente gli avvocati della famiglia insorgono perché no, noi vogliamo l'ora e l'incidenza dei tranquillanti, perché è stato trovato con un mix di eroina, tranquillanti, alcol, dobbiamo capire tutto. E allora al secondo referto la dottoressa dice sì, potrebbe essere anche 48 ore prima, cioè quindi passiamo dalla giornata stessa alle 48 ore prima, che non esiste perché la scena del crimine diventa falsata, cioè, come facciamo a risalire? Quindi e anche quello ci fa capire che un'autopsia fatta male, dove addirittura viene tirato fuori l'esame del capello per dimostrare che Attilio Manca era un tossico, che è un esame che non esiste, nel senso che nel fascicolo di Attilio Manca non c'è un referto, uno scritto tale giorno, a tale ora, con tali strumenti è stato fatto un esame tricologico per dimostrare che sul capello c'erano tracce di eroina e quindi l'uso pregresso di eroina e Attilio un tossico. No, non c'è scritto, c'è scritto solo che dall'esame tricologico risulta un uso pregresso di eroina. Infatti gli avvocati dicono sì, ma dove, quando, con quali strumenti è stato fatto? Io ho intervistato personalmente un tossicologo forense di Bologna che mi ha detto non sta né in cielo né in terra questo esame, perché l'esame del capello per capire se una persona è drogata e da quanto tempo è drogata deve essere fatto di centimetro in centimetro. Tu prendi un capello che è lungo 10 cm, lo sezioni di tanti centimetri e capisci il primo centimetro che è quello della radice, il primo mese, il secondo, quindi a salire si allontana. Se il primo centimetro risulta positivo ad eroina, è normale, perché la sera stessa che Attilio si è iniettato eroina comunque va a influire, quindi non può valere come documento per dirlo di un tossico, c'è l'esame del capello e quindi basta, dimostriamo che lui è un drogato. Non esiste, soprattutto quando non c'è un incarico della procura che dice affido al tossicologo tale e tale di fare un esame tecnologico, non c'è. La procura ha chiesto al tossicologo di sapere l'incidenza dei tranquillanti e dell'alcol in una morte di lui. Punto. E questo qui se ne esce con una frasetta sibillina che, dopo aver detto che l'incidenza, però nell'esame risulta che lui ha fatto uso pregresso. E quindi la procura di terra è basta, il caso è chiuso. È un drogato, si è suicidato, non c'entra niente la mafia. E attenzione, questa è una cosa importante. Il giorno della fine di ottobre, ricordatevi questo periodo, ottobre 2003, quando Attilio chiama la madre e gli dice sono al sud, nel sud della Francia a vedere un intervento, che è il periodo in cui Provenzano è operato, la cosa stranissima è che Attilio ovviamente non è al lavoro. E invece la procura di Viterbo cosa fa? Chiede al capo della squadra mobile dell'epoca di investigare sulla presenza di Attilio Manca in quei giorni di fine ottobre 2003 dove era, e lui cosa scrive il capo della squadra mobile? Dai riscontri oggettivi, Attilio Manca era in servizio a fine ottobre 2003. Quindi chiudiamo l'assessore Corazzano, lui era in servizio, non c'è. Un bravo giornalista di Chi l'ha vista, questo è nuovo, come diceva prima la direttrice della trasmissione, che per prima si è occupata seriamente per capire il mistero, cosa ha fatto? È andato a scandagliare tutti i registri e ha trovato esattamente il contrario, che a fine ottobre 2003 Attilio Manca non era in servizio. Quindi pensate, la squadra mobile di Viterbo che attesta il falso, e guarda caso l'ex capo della squadra mobile Salvatore Gava è lo stesso che verrà condannato al G8 di Genova del 2001 per le false bombe molotov trovate in squadra, tanto della relazione che attestava che i militanti l'avevano portata, era falsa, è stato condannato a 4 anni. Quindi la stessa persona che guarda caso si ritrova magicamente a redigere un'altra nota della polizia che attesta il falso. Quindi tutti questi tasselli, cioè come minimo una procura dovrebbe dire fermi tutti, cioè troppo per dire che è un suicidio per droga, fermiamoci un attimo, analizziamo tutto. E invece no, così non è stato, perché hanno fatto un processo con l'unica imputata, questa donna Monica Mileti, che era accusata di aver ceduto l'eroina che ha causato la morte. La cosa gravissima, e qui bisogna sottolinearlo perché rimanga a futura memoria, non è mai successo in Italia, ecco, in questo caso sì, la famiglia del defunto di Attilio Manca è stata estromessa dal processo come parte civile, che avevano chiesto ovviamente di essere presenti per interrogare, per chiedere tutta una lista di testimoni incredibili dal primo all'ultimo, è stata estromessa dal processo perché secondo il giudice la morte di Attilio Manca non ha causato danno, non ha provocato danno ai loro congiunti. Ora io mi dico, a livello umano, a livello giudiziario, è una grida vendetta al cielo, perché muore un figlio e non crea danno alla famiglia? Prima domanda umana, terra terra. E secondo, dico, a livello giudiziario una famiglia non ha diritto a essere parte civile in un processo per la morte del proprio congiunto? Quindi a essere maliziosi viene da pensare che la lista di testimoni presentata dall'avvocato Repici insieme ad Antonio Ingroia era veramente molto pericolosa, perché loro avevano chiesto di sentire tutti, dal padre del miglior amico che aveva detto una settimana dopo la morte di Attilio se lui era stato ucciso perché aveva visitato Provenzano, a tutti gli ex amici che d'improvviso si svegliano e accusano Attilio di essere un ex drogato anomalo, a tutti i pentiti, collaboratori di giustizia, agli ufficiali di polizia che avevano scritto il falso, tutti vogliono sentire. E invece sono stati estromessi. Quindi il processo è stato velocissimo. Questa donna è stata condannata 5 anni, e non ne farà neanche uno, perché ovviamente sappiamo benissimo che adesso al massimo finirà ai servizi sociali, se proprio proprio. Quindi non si è risolto nulla, non si è andato a scandagliare sulla massoneria, sui servizi. Hanno chiamato la madre e l'hanno tenuta a 3 minuti per dire: signora, lei conosceva questa donna che avrebbe ceduto l'eroina? E ha detto: no, grazie, può andare. Allora la madre ha detto: no, un attimo, vorrei dire una cosa. E ha fatto un mini intervento di 7-8 minuti, ma solo perché lei ha chiesto e ha spiegato alla corte in 7 minuti i misteri che lei pensava che ci fossero. Questa donna che viene presentata da questi amici siciliani che sono sì in contatto con mafia, massoneria. Quindi sembra proprio una cosa costruita ad arte, no? Per creare un anello debole e fare in modo che ci sia una soluzione classica, morte per droga. Questo tossicologo di cui parlavamo prima, il professor Giancani, analizzando le fotografie dell'autopsia della casa, ha detto: qui non mi torna niente. Cioè, dice, quando un tossicodipendente si fa due dosi, già è strano. Quindi dice, tra la prima dose e la seconda, cioè la persona è completamente sballata, cammina trascinando la sedia, tira giù mobili, stravolge, si butta sul letto, stravolge tutto. Cioè, la casa era perfetta, a Tilo sembra che sia stato adagiato sul letto, e le foto, vi assicuro che se le vedete su internet, sulla trasmissione di chi l'ha visto, se il pubblico fa veramente paura, per come viene trovato con questo sangue che gli esce, tanto che Don Ciotti diceva che sto morire migliaia di ragazzi per overdose, mai ho visto morire uno così, mai in tutta la mia vita, io ne ho visti veramente tanti. Ecco, questo psicologo ha elencato tutte queste cose dicendo: non è possibile, cioè la scena non mi torna, questo non è un suicidio, non è un overdose. Quindi, per concludere questo primo pezzo, solo questo ci dovrebbe far capire che di fronte a questi misteri italiani noi abbiamo il dovere come cittadini di chiedere, di fare domande e di non accontentarci, perché la procura, anche se ha chiuso il processo, perché il caso è chiuso e l'inchiesta è passata a Roma, perché pensate che a Roma c'è un filone aperto, purtroppo in fase di chiusura, perché a Roma sono confluite tutte le testimonianze dei pentiti, tutte le incongruenze che gli avvocati hanno evidenziato, e hanno aperto un fascicolo per omicidio. Quindi anche un'assurdità: da una parte il Viterbo chiude per suicidio e dall'altra parte la procura di Roma apre per omicidio. Cosa è successo però? Che nel frattempo la procura di Roma non ha trovato, secondo quanto risulta, elementi per andare avanti, ha chiesto l'archiviazione. Si sono opposte 30.000 persone, abbiamo raccolto col sito Antimafia 2000 una petizione che ha raccolto firme di prestigiosissime personalità politiche, cantanti, attori, da Don Ciotti a Fiorella Mannoia, da Luigi Di Maio a Beppe Mia, trasversalmente tutti i personaggi famosi hanno firmato per dire: non archiviate questo caso, perché non è giusto che questa povera famiglia si veda chiudere la morte del proprio figlio per droga. Così, e soprattutto con tutti i misteri che ci sono dietro, che sono, come vi ho detto prima, mafia, massoneria, servizi. Se noi siamo un paese, purtroppo c'è la dimostrazione che per avere la verità abbiamo bisogno di 20 o 30 o 40 anni, pensate al caso Moro, alla strage di Ustica, ci sono tanti misteri dove al massimo si arriva agli esecutori, se si arriva. Per avere i mandanti esterni a volte non basta una vita, e allora non dobbiamo continuamente collezionare casi, misteri, perché adesso non ti manca. Abbiamo misteri ancora, pensate su Via D'Amelio, sulla strage di Via D'Amelio. Cioè, abbiamo l'agenda rossa di Paolo Borsellino che è scomparsa dalla borsa del giudice, e noi come Antimafia 2000 siamo stati testimoni diretti, perché, e qui apro giusto una piccola parentesi per dire quanto è importante il ruolo dell'informazione. Quando questo mistero dell'agenda rossa ancora non esisteva, a noi arrivò una telefonata della nostra fonte che ci disse: guardate che esiste una fotografia che ritrae un carabiniere che si allontana da Via D'Amelio con la valigetta di Borsellino, di Paolo Borsellino, e nessuno sapeva niente di questa foto. Questa nostra fonte ci disse che c'era appunto un fotografo, tale nome, cognome, la foto. Noi non abbiamo fatto lo scoop, non abbiamo scelto di sparavamo la notizia, eravamo gli unici in tutta Italia, non esisteva nessuno, nessuno sapeva di niente. Abbiamo preso tutte le informazioni, le abbiamo consegnate alla DIA di Caltanissetta, che hanno aperto subito un'indagine e hanno interrogato il fotografo e sono tutti i protagonisti ovviamente del caso, senza che la stampa sapesse una riga. Quindi cosa è successo? Che l'indagine è andata avanti spedita, senza avere nessun tipo di intralcio a livello giornalistico, fino a quando poi purtroppo la notizia è filtrata. Mi ricordo della prima volta che uscì l'Unità, che pubblicò un articolo grande per dire: c'è un'indagine su un carabiniere, Giovanni Arcangioli, che si allontana da Via D'Amelio con la valigetta del giudice, e da quella valigetta scompare l'agenda rossa Paolo Borsellino, dove lui scriveva tutte le sue intuizioni. Non era un'agenda pratica così degli impegni di lavoro, era una cosa dove lui aveva ammesso ai suoi amici più cari che lui scriveva le sue intuizioni. E dopo la strage di Capaci, i 57 giorni che precedono la strage di D'Amelio, lui è come se fosse una lotta contro il tempo, scrive tutto quello che ha capito che sta vivendo, perché lui si era reso conto che c'era una trattativa fra Stato e mafia, tanto che la vedova Agnese Borsellino, quando verrà interrogata, che era mio marito, me lo disse tornando da Roma il 17 luglio, due giorni prima di essere ammazzato: ho visto la mafia in diretta, c'è un dialogo fra Stato e mafia. c'è una trattativa. Quindi se lui si mette di ostacolo, è chiaro che deve essere eliminato, capite? Qualcosa di molto più grande di noi, che adesso è un macchio. E tutto questo non lo dice un giornalista o un familiare, dicono le sentenze, perché le sentenze della strage di Firenze del 93 scrivono nero su bianco: la trattativa ci fu fra Stato e mafia, e a cercarla non fu la mafia, fu lo Stato. Quindi quando un giudice dice che la trattativa c'è stata, noi come cittadini ancora di più abbiamo il dovere di sostenere quei magistrati coraggiosi che si battono per avere la verità sulla trattativa. Ma voi pensate che in Italia il TG1, il TG2, i grandi giornali ne parlano a malapena qualche notizia quando c'è da attaccare i magistrati? In questo caso Nino Di Matteo, condannato a morte da Totò Riina quando era ancora in vita il capo dei capi. Quindi penso che questo sia emblematico e sia tutto collegato anche con la storia di Attilio, perché siamo un paese dove veramente bisogna collegare i vari fatti, non possiamo sezionare il caso di Attilio da una parte e la strage di Alameda dall'altra, la trattativa, no, dobbiamo imparare a unire, e solo unendo possiamo capire che questo paese di misteri come l'Italia non può durare in eterno, perché sennò siamo condannati a riviverli. Se non risolviamo i misteri 40 anni fa, Casa Nuova, Ustica, Piazza Fontana, tutte quelle che sono venute, noi rischiamo veramente che se in un momento delicato come questo, che non si capisce questo governo come prende, se prende piega, che faccia avrà, che colore avrà, è il momento ideale per la destabilizzazione, ce lo insegna la storia. Quando sono questi momenti di stallo, sono molto utili le bombe, sono molto utili le morti eccellenti, perché si fanno sbrigare tutti, però tutti si mettono d'accordo. Pensate a una strage incapace, che erano indecisi per il premier, il presidente della Repubblica, in due secondi hanno fatto tutto, basta una strage. E così noi dobbiamo impedire, la società civile ha un ruolo importantissimo nella ricerca della verità. Perché se no, ripeto, siamo noi primi a essere complici di un sistema che è veramente molto più grande di noi. Sembra tutto molto chiaro. Cerco di fare il punto utilizzando il metodo, direi, Buscetta. Cioè, il primo importante del sentito di mafia si fermò, disse: io della parte dei legami tra la mafia e la politica non parlo, perché si solleva un polverone che è difficile poi districare il tutto. E quindi lui si ferma volontariamente. Io cerco di fare una cosa simile in questo momento, perché credo che alcuni fatti spieghino bene, anche senza dover cercare poi i pentiti che dicono una cosa, poi la smentiscono. C'è un caso, un ragazzo, perché era poi un giovane urologo, viene ritrovato morto per overdose di eroina. Non era un medico, quindi non era un classico tossicodipendente, e gli si trovano due fori nel braccio sinistro. Era mancino, a chiunque di noi viene il dubbio, forse allora c'è qualcosa che non funziona. Controllano le impronte, come ha detto prima Lorenzo, non si trovano impronte. Allora, sarà capitato magari a qualcuno di voi di venissero prese le impronte, non in carcere magari, ma per tutti, e prendere il pollice e lo spingono. Su una siringa si fa più o meno questo gesto. Possibile che non ci fosse un'impronta digitale sulla siringa utilizzata? Ancora, la porta era aperta, quindi la possibilità che qualcuno fosse entrato e uscito c'era. L'esame tricologico che doveva dare la prova definitiva che lui fosse un tossicodipendente non esiste. Allora, chiunque, credo chiunque di noi, direbbe: questo è un caso da indagare. Proprio il fatto che non si indaghi presuppone che poi ci sia qualcuno che non vuole che questo venga fuori. Già quello. Perché questo, ho fatto questa legislazione perché sono fatti. Non ci sono le parole dei genitori che possono essere fraintese, non ci sono quelle dei pentiti che possono avere secondi interessi, questi sono fatti ben precisi. Riguardo a quello che è vero, siamo un paese in cui la verità non si riesce mai a sapere, non la sappiamo sul caso Moro, non la sappiamo sulla strage di Bologna, non sappiamo perché qualcuno lasciò una valigia piena di tritolo facendo 85 morti in stazione a Bologna, non lo sa nessuno, ci sono condannati ma nessuno sa il motivo. E quindi c'era un destinatario che non conosciamo, però intanto 85 morti in 100 feriti ci sono stati, e tutte le volte purtroppo finisce così. Cioè, quando si mette a indagare su fatti di un certo tipo, si finisce in questo magma che sono i famosi contatti tra trame avversive, mafia e potere politico di un certo tipo. Allora, quello che diceva prima Lorenzo riguardo alla trattativa, personalmente mi fa venire in mente un episodio da cui vorrei ripartire, che mi ha raccontato, che era un episodio pubblico e noto, ma mi ha raccontato personalmente Giancarlo Caselli. Quando viene arrestato Rina, Caselli sbarca lo stesso giorno a Palermo per prendere possesso delle indagini e del buon attivato, diventare capo del buon attivato. E quindi appena arrivato si trova a gestire una situazione veramente molto complicata, perché appena arrivato c'è Rina che era ricercato per aver ucciso quelli, tra l'altro, prima che l'avevano preceduto. Quindi riesce a sistemare tutto e, se non sbaglio, dopo 2 giorni lui dice: d'accordo, nel covo di Rina cosa avete rinvenuto? Niente. Dice: come? Andate a verificare. Quindi i carabinieri vanno a controllare il covo di Rina, e il covo di Rina era stato ristrutturato praticamente, ridipinto, cioè avevano rimesso a posto. Allora, che esista una trattativa oltre alla sentenza dei giudici lo dice anche una certa, cioè, basta il buon senso, come tante volte viene raccontato nel libro. Immaginiamoci che viene arrestato il pericolo pubblico numero uno e nessuno perquisisce il covo dove era. Equivale, secondo me, a quello che si era detto prima. Però questo ci pone di fronte, secondo me, alla domanda. Perché dopo quella trattativa, mano a mano, quindi qualcuno evidentemente ha consegnato Rina alle forze dell'ordine, gli episodi di violenza in Sicilia crollano. Giusto? Cioè, mano a mano si arriva alla normalizzazione come adesso. Il numero di morti per mafia sembrano, non lo so, sinceramente anche la giornalista non ho più idea di quanti morti ci siano. Allora, a questo punto la domanda fondamentale è proprio quella, cioè che cos'è successo intanto? Cioè, e quindi, riguardo anche a un caso come questo, ed è una domanda che volevo fare da quando ho letto il libro, non c'è la possibilità, visto quello che c'era a disposizione, cioè stiamo parlando appunto di servizi di un certo tipo, che anche gli errori, perché se volevo suicidarlo sono stati fatti gli errori in grossolano, no? Perché sono quei fatti che dicevamo prima, che questo fosse anche un messaggio per qualcun altro. Per intenderci, non so se è emerso nelle indagini, perché non lo so, che ci fosse non solo lui, eventualmente, nel sud della Francia, ci fosse un altro medico. Cioè, se ci fosse qualcuno più importante di Attilio, dopo la morte di Attilio, che abbia potuto capire che era meglio stare zitto. C'è questa possibilità, non lo so. Allora, guarda, posso dire che è una delle due tesi che comunque è stata sviscerata, nel senso che molti si sono domandati, ma è possibile che i servizi segreti, se sono intervenuti loro, per questo omicidio hanno compiuto degli errori così grossolani, appunto il fatto che era mancino, appunto da fare due iniezioni nel braccio sbagliato. Ora c'è una tesi che dice no, loro non lo potevano sapere, non hanno, è una variabile che non hanno potuto calcolare, quindi è andata così, ed è fortunatamente grazie a questo che si è cominciato a capire che non era un suicidio. L'altro più inquietante è che lo abbiano fatto apposta, come per dire, noi lasciamo il nostro marchio, per dire che tanto siamo talmente protetti, esatto, che comunque non ci arrivate noi. Che è una tesi molto inquietante, perché ti fa capire che veramente questo sistema criminale, che non è solo mafia ma ben altro, è talmente consapevole di essere al di sopra di tutti noi, al di sopra della criminalità stessa che gestisce. Sono Scappinato, Roberto Scappinato chiama i decisionisti, quelli che decidono che quella morte funziona per quella cosa, che quella bomba serve per destabilizzare quel paese, per far tornare un tipo di politica. Quindi se loro si sentono così potenti, così forti, anche lasciare un marchio di fabbrica ti dimostra che dice, a noi non ci tocca. Non ci sono elementi oggettivi per dire sì, hanno fatto apposta per lasciare la loro firma, non c'è. ovviamente ausenti, perché manca proprio la radice, un riscontro, come dicevo prima, manca un pentito di Stato che si pente e dice sì, ho fatto parte di un'equipe che ha organizzato questo omicidio, perché prima non l'ho raccontato, ma il pentito Carmelo D'Amico, quando racconta nel dettaglio come è avvenuta questa morte, questo omicidio, dice è stato usato un agente dei servizi con la faccia brutta, e lì c'è stato subito il collegamento al famoso Giovanni Aiello, questo uomo dei servizi chiamato Faccia da Mostro, che è un personaggio che entra e esce in tanti misteri d'Italia, le stragi capaci della Meglio, l'attentato da Daura, ed è questo poliziotto dei servizi con la faccia deturpata che secondo l'indagine avrebbe anche ammazzato un poliziotto Agostino, sua moglie Ida Castelluccio, incinta, e rientra anche lui in questo mistero. Bene, questo pentito dice che per uccidere Attilio Manchi ha stilato proprio questo agente dei servizi con la faccia brutta che era Branco, lui dice le sue parole a far passare i suicidi, gli omicidi per suicidi. Quindi se un pentito arriva a raccontare che lui sa che è stato usato un determinato personaggio che nell'ambiente è conosciuto perché fa bene il suo lavoro, ti fa capisci bene che è normale che non ci siano impronte, perché se allora non sono usato dei guanti di lattice, chiunque abbia iniettato, ha tenuto fermo Attilio, gli ha iniettato la dose, gli ha seguito addirittura, gli ha fatto rituale con il cappuccio salvato, che è una cosa che ci spiegava il tossicologo, non esiste da nessuna parte, il tossico intanto non mette mai, perché c'è qualcuno che si è fatto da lui, già comincia a smarellare, non riusciresti mai a mettere il cappuccio nell'aria, ti faresti male, se poi addirittura due, e in più dice un medico, c'è un formamento, che non, dopo che fa le iniezioni, proprio butta, e non esiste che rimetti, potresti anche ferirti, magari la siringa è fatta a un paziente magari potenzialmente infetto, quindi non esiste più il tocco. Dicevano che proprio quello è uno dei passaggi chiave. Quindi se questo uomo dei servizi ha usato questa metodologia di mettersi i guanti, iniettarli in due dosi nel braccio sbagliato, se l'ha fatto per lasciare la sua firma, ci sta tutto completamente. Però non c'è un riscontro, per dire, non c'è. Quindi potrebbero essere le due ipotesi, è stata una svista incredibile, perché loro ovviamente in quel momento, se sono andati una o più persone, hanno ovviamente dovuto eseguire quell'operazione e non hanno pensato alla variabile importantissima che era un vicino. Quindi non hanno riflettuto una cosa, un dettaglio importante. Ma questo è vero, poi non vorrei essere condizionato anch'io dalla lettura di troppa letteratura gialla, però obiettivamente se uno vuole uccidere una persona, allora non si mette problemi, arriva e lo uccide. Qui tentano di creare, no? Un suicidio. Quindi a quel punto uno dovrebbe stare attento a quello che fa, perché sennò tanto vale. A meno che non si voglia dare un messaggio ben preciso, che è quello di dire la facciamo anche malissimo, tanto nessuno indagherà su di noi. E quindi tutti quelli attorno sanno che è meglio stare attenti, perché tanto anche se gliela fanno porca non c'è niente da fare. Per questo chiedevo, prima Rossi, ma questa era proprio una domanda per conoscere i dettagli, se c'era stato questo approccio. L'altra questione appunto è, visto anche c'è il vice direttore di Antimafia 2000, è come occuparsi di mafia adesso, no? Perché non c'è più la notizia alla prima pagina, tutto sembra sistemato, volendo uno può dire una trattativa, oh, non è andata male, abbiamo smesso di vivere i morti per strada. Allora, la tua osservazione è lecita, però secondo me dovremmo analizzare in maniera ancora più profonda, perché se non abbiamo i morti ammazzati per strada, va benissimo, è sicuramente un dato oggettivo. Le stragi non sono più dal 94, dopo la strage del 93, è sicuramente un punto fermo. Però secondo me dobbiamo guardare oltre, cioè capire in questi anni, in questi più di 25 anni, dal 92 ad oggi, la trattativa si è realizzata come? Attraverso un sistema politico che pian piano è stato talmente infiltrato da, se non da uomini d'onore trasformati in politici, che in alcuni casi purtroppo abbiamo visto anche condannati, indagati, cioè c'è stato di tutto e di più. Da, se pensiamo allo stesso, cioè, la Forza Italia, che nasce da cofondata da un condannato per mafia, perché Marcello Dell'Utri, non ci dimentichiamo, è stato condannato e sta scontando 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I giudici della Cassazione hanno detto che è stato stretto l'accordo tra Cosa Nostra, Berlusconi, quindi non sono dei giornalisti a dirlo, sono dei giudici. Quindi se noi pensiamo a un partito che negli anni gloriosi è stato il numero uno in Italia, ha avuto fra i cofondatori un uomo che era un pre-union tra Cosa Nostra e Berlusconi, ti rendi conto che la trattativa è andata avanti come si è andata avanti. Quindi da quel momento in poi disegni di legge, proposte, annullare il 41 bis, chiudere le supercarceri, hanno tentato di abolire l'ergastolo, cioè se mettiamo in fila tutto quello che è stato fatto ti rendi conto che ok, non c'erano morti per le strade, ma c'è ancora peggio. Cioè il cittadino comune sicuramente non si è reso conto di cosa è successo in questi 25 anni dopo le stragi, perché ha guardato le cose più concrete. Ovviamente in Sicilia non c'erano negli anni 80 o anni 90 5 morti al giorno ammazzati, che era un far west. Mi ricordo che a Palermo c'era una sorta di coprifuoco, la sera uno a una certa ora sapeva che rischiava se usciva, ma adesso non è più. Una città florida, c'è vita, c'è tutto il contrario degli anni 80-90. Quindi questo è un dato oggettivo, ma è più pericoloso questo, è più strisciante. Allora, infatti la domanda era proprio provocatoria rispetto a questo, cioè se non lo fanno più, e se addirittura la politica può permettersi di candidare personaggi che non sono, sono stati, sono Crocetta presidente della regione, il signor Orlando sindaco di Palermo di nuovo, evidentemente il potere sta dall'altra parte. Era quello che ovviamente la trattativa non era una cosa, non la vedevo positivamente, però aiuta a comprendere come il sistema sia davvero cambiato, perché la mafia non ha più nemmeno il bisogno di prendersi, no, il potere politico, perché tanto gestisce altro. E questo a mio avviso spiega anche bene tutto il contesto attorno, dal loro punto di vista l'ha fatto bene. Non è in guerra con lo Stato, i soldi continuano a fare. Che poi anche lì la guerra con lo Stato, hanno capito che ovviamente non ti conviene, perché l'ultimo super latitante, Matteo Messina Denaro, l'ipotesi che lui stesso possa scatenare un nuovo attacco allo Stato, gli investigatori la tengono presente come ipotesi. Sanno che è un momento particolare, perché ovviamente non siamo più negli anni 90, con tutti i capi storici di libertà. Adesso c'è lui che ha una rete sua di protezione, sia istituzionale ma anche mafiosa, però sono cambiati i tempi. Quindi se lui dovesse pensare a un attacco frontale allo Stato, dovrebbero crearsi sicuramente le condizioni. Prima dicevo che questo momento storico comunque è particolare, perché siamo in una fase di stallo, dove purtroppo la storia ci insegna a volte per sbloccare questo impasse servono le bombe, servono morti ammazzati eccellenti. Quindi bisogna stare molto attenti. Matteo, Nino Di Matteo, l'altro giorno a convegno l'ho detto, è una fase molto delicata questa. Non possiamo pensare adesso ormai non c'è più, non fa più stragi, siamo tranquilli. Ma pensavo che lo Stato non c'è più. Sì, no, io aggiungevo ovviamente. In questo caso è perché la gente comune pensa che la macchina non c'è più. E quindi dice ormai non c'è più il pericolo delle bombe, però bisogna capire questo Stato trattino mafia, e purtroppo questo Stato ibrido, che ciò non vuol dire che non dobbiamo avere per il rigetto nei confronti dello Stato, perché lo Stato c'è, e come se c'è. Basta guardare i veri servitori dello Stato, le persone che veramente credono nelle istituzioni, che sono carne e sangue, non sono più delle entità astratte, sono persone che ci danno la vita. Purtroppo io penso che in questa fase storica sono una sorta di minoranza. C'è sempre questo governo ombra, questa istituzione ombra che comunque è lì, e non ha il ricatto politico mafioso. C'è un cartello a Palermo vicino a dove c'è la stella di Capaci, che mi ha colpito fin dall'inizio, perché dice qua giacciono le vittime di questo ricatto politico mafioso. È vero, perché scriverlo su un cartello, ricatto politico mafioso, la violenza politica mafiosa, è quella la realtà, perché non è più, come dicevo prima, la violenza mafiosa, questa commistione che va fermata, perché se no noi ce l'abbiamo latente, che è invisibile ma c'è. Quindi sa muovere le sue pedine, magari in questo momento non uccide platealmente il magistrato, ma magari lo delegittima, lo isola, non gli fa fare carriera. Pensiamo veramente a Di Matteo, che è stato ostacolato nel suo lavoro fino a quando è stato costretto a lasciare Palermo e andarsene a Roma. Fino a quel momento, nella sua stessa procura, il procuratore capo gli metteva bastoni tra le ruote e gli impediva materialmente di potersi occupare totalmente di un processo così delicato come la trattativa stato mafia. Lui era costretto a spostare il fascicolo trattativo, a occuparsi di balconi abusivi, motori rubati, liti condominiali, cioè un paradosso. E questo perché il suo capo gli metteva fascicoli su fascicoli sul suo tavolo e lui doveva dividere la sua giornata tra trattativa, liciogelli, tutte queste cose delicatissime e poi litigodominiali. Quindi tenendo conto che per ammazzare un magistrato in questa fase forse non serve ancora il tritolo, lo uccidi così, legittimato, isolandolo nell'ufficio, evitandogli le promozioni, mi ricordo che fece più domande per diventare procuratore aggiunto e fu bocciato. Per andare alla DNA e fu bocciata, ci furono ricorsi alla terza volta, quando sembrava che fosse impossibile, alla fine quasi per come un contentino perché era troppo eclatante, aveva il punteggio massimo e non potevano essere tradizioni, infatti li hanno fatti sudare. Ecco, lo Stato secondo me a volte è così subdolo che riesce a colpire, a neutralizzare i suoi migliori servitori in questo modo. E il rischio dell'attentato comunque rimane sempre, perché quando Cosa Nostra condanna a morte non è una condanna che si estingue con la morte del capo, si estingue solo quando viene ammazzato il personaggio e soprattutto quando è funzionale a un sistema criminale che decide che il momento serve. E allora ogni momento di stallo della nostra fragile democrazia bisogna sempre stare su chi va e pensare sempre che non dobbiamo abbassare la guardia solo perché non ci sono morti ammazzati da qualche anno, alcuni anni, siamo tranquilli. Quindi dobbiamo chiedervi come si fa a scrivere di mafia, non è facile, perché è un momento particolarissimo, appunto è più facile parlare della mafia folcloristica, quella che è stata, partiamo dal Capone, attraversiamo tutta la storia, quella che piace molto anche a molti paesi stranieri, che vengono in Italia, fanno documentari un po' folcloristici, dove bianco e nero, il buono e il cattivo. Io mi ricordo quando è venuta questa truppa a Palermo a fare il documentario sulla trattativa, il Very Sicilian Justice, questo documentario straordinario trasmesso da Al Jazeera. Questa è una truppa inglese che venne a Palermo e venne con un'idea. Mi ricordo che siamo rimasti giorni e giorni a parlare con me, con la redazione, con tanti altri colleghi di gamba, che gli hanno proprio fatto capire come era molto più vasta. Loro sono venuti con un'idea, appunto, tutto bianco e tutto nero. Quando li abbiamo messi di fronte, che c'erano tante zone grigie, il documentario ha preso una piega molto diversa. E se uno adesso lo vede, noi l'abbiamo fisso nel nostro sito, perché è un documentario che è a futura memoria, secondo me, fatto da una truppa appunto di stranieri, ecco, sono riusciti a entrare, a capire, forse meglio di tanti nostri colleghi italiani, che o per negligenza o per complicità, perché è meglio non svegliare il lavoratore, non disturbare il lavoratore, o perché il capo ti dice che il livello basso non mi interessa parlare di veri altri. Ecco, questa truppa è riuscita a far capire in che razza di paese viviamo, che veramente, come disse Alexander Stille, in un altro paese, fece un documentario che si chiama così, in un altro paese, e ha preso tutti i nostri paradossi italiani e ogni tanto diceva in un altro paese questo non sarebbe possibile. Ed è vero, perché noi siamo veramente un paese anomalo, che siamo una democrazia appunto riconosciuta e tutto, ma non è una falsa democrazia, perché in certi versi siamo come lo Stato canaglia che è pronto a vendersi, come fece la Colombia, con i narcotrafficanti per saldare il debito pubblico, che hanno chiesto soldi sporchi di narcotraffico, macchiati di sangue. Non dico che siamo quei livelli, ma siamo vicini a poterci vendere per risolvere situazioni. Quindi, per chiudere il discorso di formazione, non è facile. Parlare di mafia oggi sembra quasi parlare di qualcosa di utopistico, perché tu cerchi di parlare alle nuove generazioni raccontando di cosa è stata la mafia, cosa sono state le stragi, chi c'era da una parte lo Stato, dall'altra parte la mafia, ma non erano così netti i confini. E quindi tu hai una responsabilità grandissima di spiegare ai ragazzi che devono capire che c'è una zona grigia, ma allo stesso tempo non devi togliergli la fiducia, perché sono giovani. Quindi è un attimo, trasmetti uno sconforto, una disillusione e finisce tutto. Invece no, devi semplicemente renderti consapevole e trasmettere questo input della ricerca della verità, perché solo se questa democrazia si basa su giustizia e verità, questi due pilastri importantissimi, allora sì che possiamo togliere quel famoso ricatto politico mafioso che ancora sta ipotecando il nostro futuro. Ma servono giustizia e verità. Se guardiamo gli ultimi 25 anni, abbiamo visto come gli attacchi alla magistratura e i processi politici sono stati devastanti. Tu tu pensa quanto sono riusciti a instillare nell'opinione pubblica la repulsione verso i magistrati. Tutti i vari attacchi, da Berlusconi in giù, tutti hanno sistematicamente attaccato i magistrati, e alla fine un comune cittadino bombardato di questi input, alla fine ci crede, perciò se continuano a dire che sono così, alla fine sono così. Invece ho da dire attenzione, i magistrati stanno cercando la verità per noi, per i nostri figli, per chi verrà dopo, che devono sapere chi ha messo le bombe, chi ha armato Piero Grasso. Questa frase mi è rimasta in testa. Quando era ancora procuratore nazionale, venne intervistato da Saverio Grasso e lui disse una frase molto liscia: a volte Cosa Nostra è stata il braccio armato dello Stato. Io se lo dice un magistrato che ha vissuto come lui gli anni di Palermo, cioè non lo dice per fare una frase effetto, lo dice con condizione di causa. Quindi queste frasi ci devono far capire che se c'è una Cosa Nostra che diventa un braccio armato di uno Stato che gli dice vai lì, metti le bombe che ci servono, come sono state le bombe del 93, che sono state proprio le bombe della trattativa, in questo caso ancora di più perché la mafia alzava il livello, noi abbiamo il diritto di chiedere chi sono questi mandanti esterni, abbiamo il dovere, perché solo avendo la verità possiamo scalzare via questi criminali da luoghi di potere, perché molto spesso si infiltrano per essere votati, per avere nuovamente l'infantile. I poveri ragazzi di 18 anni, 20 anni che vanno a votare, se non hanno degli strumenti, delle basi per riconoscere i politici corrotti da quelli che invece vogliono cambiare, qui non si tratta di sostenere uno un partito o un altro, bisogna votare i fatti, la coerenza. Io penso che la parola magica sia coerenza: tu predichi bene, ma devi anche razzolare bene, devi fare in modo di dimostrare che la tua politica è innovativa, che sei a favore della gente, che non ti compromette per lo stipendio, che sembra veramente un'utopia. Molto spesso mi vengono in mente le parole di Edoardo Galeano, che dice: ma l'utopia è come l'orizzonte, tu cammini e si allontana, cammini e questo orizzonte si allontana, ma che serve l'utopia? E lui diceva: a camminare, almeno camminiamo, perché se ci fermiamo e ci facciamo sovrastare da quest'onda è finita, cioè l'abbiamo già, come dice, servita sul piatto d'argento, almeno cerchiamo di porci di ostacolo per dare questi giovani che stanno crescendo un minimo di speranza di un futuro. Dobbiamo dare, penso che sia un nostro dovere, perché ognuno nel suo ruolo, noi come giornalisti abbiamo un dovere grandissimo, e purtroppo, e tu lo sai meglio di me, gli spazi di libera informazione sono sempre più ridotti ed è sempre più difficile fare il nostro mestiere con libertà, con autonomia, è sempre più difficile, perché per me gli editori, cioè tutti che gli equilibri sono da tenere stretti, perché sennò attento che se parli male di quello ci calano gli introiti o l'editore è scontento. Quindi il giornalista è in tanti anni, quindi questa responsabilità non ce l'abbiamo doppia, secondo me. Però chiunque, un semplice cittadino, secondo me anche lui può contribuire a cambiare il corso della storia, però serve la consapevolezza, serve la verità. Sono perfettamente d'accordo, non sono altrettanto ottimista, anche se sono ottimista su una cosa: se la mafia si è trasformata in un sistema d'affari, avere un governo che forse c'è, forse non c'è, chissà se ci sarà, si torna a votare, può anche fare, fino a un certo punto potrebbe continuare a fare comodo. Credo che comunque, qualunque fosse stato il risultato della trattativa, è evidente che la politica, che passa l'idea che sia una cosa brutta, è la politica vive insieme, gestire gli affari comuni, non possiamo dire una cosa brutta, perché se non lo fa nessuno, ovviamente siamo costretti a ritornare a momenti particolarmente drammatici. Però volevo chiedere se ci sono un paio di domande, forse. Sì, 5 minuti. Prego. A proposito di anomalie da parte dello Stato, il mio non è un seme ammuffito che io butto lì adesso così, e se è venuto fuori il nome di Berlusconi, come mai davanti al cancello del signor Berlusconi di Villa Arcore, mi sembra che si chiami, c'è sempre una pattuglia dei carabinieri? Cioè davanti la porta, davanti a casa mia no, ma almeno davanti alla casa del signor Massimiliano Boschi c'è sempre una pattuglia dei carabinieri piantata lì. Cioè, mi viene da pensare da cittadino, ma pace della miseria, perché un pregiudicato deve permettersi di avere una pattuglia dei carabinieri 24/24 che potrebbero servire anche in altri posti? Questo per me è anomalia da parte dello Stato, perché è il ministro dell'interno che deve vedere queste cose e dire: ma porcaccia della miseria, tu prefetto o chi, io non so chi ordina le pattuglie. Ieri, stamattina, fanno 06, fanno 012, 12, 24. Ma dico, ma stiamo scherzando? E sai cosa è secondo me l'anomalia peggiore ancora? Che un pregiudicato come Berlusconi vada da Mattarella a parlare tranquillamente come leader. Quello per me è un obbrobrio che parla, che grida l'ho detto al cielo, perché penso al pregiudicato. La cosa più grave, come vi ho detto prima, è che in questo momento lui e Dell'Utri sono indagati a Firenze come mandanti esterni delle stragi della Mattarella, della nuova indagine. Quindi ha un'imputazione gravissima. Dietro ci sono fior fior di indagini che sono ovviamente state, sono finite, sono archiviate, ma che li hanno indicati come mandanti esterni nelle stragi. E questo ce n'è un'altra a Firenze, perché ovviamente sono stati, hanno intercettato sia Rina che Giuseppe Graviano parlare mentre dicevano che servivano queste, che queste stragi servivano, questi morti servivano, poi arriva Dell'Utri, Berlusconi, queste frasi smozzicate sono finite a Firenze e c'è un'indagine aperta. Ecco, lei pensi che quest'uomo pregiudicato, indagato per strage, va tranquillamente a sedersi da Mattarella e parlano di programmi, di governo? Non è un'anomalia incredibile in un paese al contrario come il nostro? Io penso di sì. Se noi ci indignassimo non solo al bar o così arrabbiandoci, ma con un'indignazione più profonda, più proficua, più costruttiva, facendo capire che siamo un popolo con dignità, che i nostri padri, i nostri nonni non sono morti in vano, sono morti per darci un futuro, ecco, allora significherebbe che quando quest'uomo va in giro non avrebbe la folla oceanica in adorazione o le televisioni tutte pronte a raccogliere i suoi sospiri, no? Dovrebbe essere sommerso di fischi, le televisioni dovrebbero ignorarlo, dovrebbero lasciarlo a un filo da qualche parte. Purtroppo non è così, perché siamo un paese al contrario. Questa è una cosa che fa arrabbiare da cittadino, perché penso che non sia giusto nei confronti soprattutto delle vittime delle stragi, perché solo il fatto che lui più volte è entrato in queste indagini o per i collaboratori di giustizia o in questo caso per i mafiosi che sono stati intercettati, non è più un pentito che dice: sì, a me Rina ha detto che Berlusconi ci aveva garantito che era bene per tutta cosa nostra. C'è cioè, un pentito raccontato, gli si può credere oppure no? Qua sono i mafiosi che parlano e non sanno di essere intercettati, quindi, e parlano di Dell'Utri, di Berlusconi, questi morti servivano. Come servivano? Questi morti servivano, cioè per me sono cose inaudite, che se fosse un popolo con dignità dovremmo veramente scendere in piazza e dire: no, noi vogliamo la verità. Quindi tu adesso non vedi nessuna parte bella Mattarella, non stai dentro un partito, te ne ci sparisci dalla scena politica. In Inghilterra i ministri si dimettono se non pagano la colf. Scoppia lo scandalo sul giornale, i ministri si dimettono e sparisce la vita politica. Non vedete nessuno, da lui continuano a parlare, vengono condannati da una porta a porta. Pensate ad Andreotti, che anche è stato assolto ma con una soluzione terribile, che diceva che fino al 1980 aveva stato in contatto con Cosa Nostra. Il presidente Andreotti, una sentenza che lo scrive nero su bianco, e lui andava da Bruno Vespa e c'era scritto assolto dietro le spalle. L'italiano medio vedeva la trasmissione, leggeva assolto e diceva: ammazza questi giudici come si sono incarniti. E invece non era così, perché nelle mille passa pagine della motivazione della sentenza c'era scritto nero su bianco che lui aveva consolidato il rapporto con Cosa Nostra fino al 1980. Quindi prescrizione, niente, la cosa finiva lì. Ma è una cosa gravissima. Lui era stato informato da questo cittadino. No, sicuramente, tipicamente italiano anche quello, ma se nella sentenza c'è scritto che lui viene informato del progetto omicidiario dell'omicidio Mattarella, lui va a parlare con il boss mafioso e dice: si sta comportando male, e lui non dice niente a nessuno. Torna a Roma, Mattarella viene ammazzato dalla mafia e Andreotti torna a parlare con Cosa Nostra. Cioè, che paese siamo? Che permettiamo che quest'uomo che è rimasto come il grande presidente Andreotti vada in televisione fino alla fine, basta essere santificato. Quindi non mi stupisco veramente di nulla. Berlusconi che va a Mattarella rientra nella logica No, anche la, però la sicurezza adesso gliela fanno i carabinieri, prima gliela faceva Mangano. Ma io non mi stupisco. Non mi stupisco perché queste cose sono un pochino indignato, con tutto il rispetto che ho per i giornalisti che passano davanti, dico, ma io l'ho visto attraverso solo la televisione, quanti lo vediamo che c'è la pattuglia alla ferma, ma quanti giornalisti a Milano, milanesi, dico di Repubblica, dico di del Corriere della Sera, perfino del giornale, sì, ma sì. Quelli qua, e passano lì davanti e vedono, nessuno scrive questo. Io sono indignato a questo punto. Perché mi indigno? Perché io ne sto parlando. Ma questa è la dimostrazione che serve un'indignazione ancora più costruttiva. Se pensa che nell'epoca di Tangentopoli, quando scoppiò, la gente comune mandava i fax, i giornali per protestare, ecco, se noi tornassimo. Adesso ci sono più strumenti, c'è Facebook, c'è un sacco, però c'è molta rassegnazione. E la cosa mi fa più male quando la vedo dai giovani che già pensano che tanto la fine non cambierà niente. Cosa scende in piazza se poi le cose non cambiano? Ecco, se il sistema di potere è riuscito a instillare nei giovani questo concetto, qua ci ha vinto più della metà. Perché non trova di fronte una popolazione pronta a reagire, a scendere, a indignarsi. Salvo rare eccezioni, però siamo sempre disuniti, e questo è un errore secondo me molto grave, perché noi dovremmo unirci sempre, anche se siamo diversi, atei, credenti, chi se ne frega, basta che abbiamo un obiettivo comune, che è quello di portare una classe politica nuova, sconfiggere definitivamente la mafia e volere la verità sulle stragi di Stato. Tutte queste cose messe in fila, se ci trovassimo uniti e compatti nel pretenderle, secondo me il sistema di potere un po' avrebbe paura di un popolo cosciente, ma non ha per niente paura, perché vedi un popolo bue, salvo rare eccezioni, che tira a campare, perché ci sono tanti problemi quotidiani che non c'è tempo per pensare a altre cose, perché ovviamente il sistema in questo modo tiene una popolazione annichilita, disillusa, ma non va benissimo così. Quindi il lavoro è veramente impari, perché si deve un'informazione che informasse veramente, con dei giornalisti che facessero. Come diceva Pippo Palla, giornalista ucciso dalla mafia, cioè un buon giornalismo è capace di cambiare, cioè la società, di migliorarla. Il cattivo giornalismo si carica di responsabilità. E quante se ne sono caricate in questi anni il cattivo giornalismo? Se ne è caricato in maniera incredibile, quanto ha distorto la verità, l'ha travisata o l'ha nascosta. Perché noi abbiamo amici carissimi che lavorano nei telegiornali di TG7, TG1 e ci raccontano proprio le censure. Che tranquillamente il direttore guarda che non sta questa, no. Cose che sono importantissime, perché no? Perché non si deve disturbare, perché va benissimo tenere gli ultimi minuti su cose più leggere, più frivole, ballando con le stelle, balliamo, chi se ne frega, il mondo, tipo il titano, che affondi tutti che suono. Quindi se siamo così, la controrivoluzione va fatta veramente partendo dal basso, dalle scuole elementari, partendo dai ragazzi che hanno loro l'asilo forse. Devo dire che io ogni tanto non lo fa più Corriere della Sera a internet, per fortuna, ma se no metteva la notizia più letta, ogni tanto non entrava. Spesso era come fare una doccia, che uno fa un giornale per quello, oppure chiaramente le notizie più frivole. Io credo che purtroppo il sistema giornalistico ormai stia funzionando così. Cioè, data questa notizia al telegiornale l'audio risponde così, data questa in rete risponde così, diamo quelle notizie. Non funziona così, questa non è informazione, l'informazione è un'altra cosa, indipendentemente dal fatto che la gente poi vada a leggersi sul Corriere, poi non so nemmeno perché, come si fa la doccia, che resta un mistero, però contro il giornalismo è tutto un altro. Se l'idea è facciamo un prodotto che si venda più di tutti, a quel punto sappiamo che cosa che mestiere stiamo facendo, non è quello del giornalista. Io direi di chiudere qua, ringrazio tantissimo Lorenzo per essere intervenuto, lì trovate copie del libro se vi interessa, ringrazio la biblioteca provinciale e spero possiate ritornare per altre iniziative di questo tipo. Grazie a tutti.